in primo piano. I titoli d'apertura dei giornali sono soprattutto dedicati alla questione internazionale con Atene soccorso da 110 miliardi, per esempio il Corriere della Sera, e Grecia conto da 110 miliardi, questa cifra la trovate ovunque, è il prezzo da pagare per salvare Atene e la Grecia. L'altro tema è quello del fallito attentato a New York, che ovviamente ripiomba nella paura dell'11 settembre. Repubblica, autobomba a Times Square, a New York torna la paura. Questa è l'apertura di Repubblica. Il Sole 24 Ore per il Sole del lunedì. Freno alle liti in condominio. Vedremo la novità dall'anno prossimo della conciliazione obbligatoria che cambierà radicalmente la situazione per quel che riguarda il rapporto tra gli italiani e i tribunali per milioni di cause. C'è anche molto della politica ancora in primo piano, la vicenda Scajola che andremo a vedere. Ma come detto, Atene. Ieri è stata una giornata importante perché l'Eurogruppo ha sostanzialmente deciso che bisogna dare una risposta alla situazione della Grecia. La Grecia nella zona euro è scivolata ai limiti estremi e si legge sul Corriere della Sera sì al salvataggio della Grecia. A prezzo di che cosa? Ovviamente congelati i salari, congelate le pensioni, vengono dati aiuti per 110 miliardi con Tremonti che dice buono accordo, è l'unico accordo possibile. Ovviamente ci sarà una situazione di austerity ora per la Grecia, la pensione per esempio, le pensioni, l'età minima sarà fissata a 60 anni, il limite era di 53 anni, pensate 7 anni in più, i salari saranno congelati fino al 2014, l'IVA crescerà del 2% dal 21 al 23%, insomma tanto che si legge subito sul Corriere, la piazza punisce l'accordo, che cosa succede? Subito proclamata una settimana di scioperi, nella notte anche esplode un ordigno di fronte a una banca, ovviamente ora la tensione sociale si teme che possa salire, perché chiaramente per pagare questo prezzo del salvataggio bisogna varare anche un austerity in Grecia molto molto rigida. C'è un intervento sul Corriere della Sera di Lorenzo Bini Smaghi, che fa parte del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Una procedura lenta, dice Bini Smaghi. Ci sono voluti circa 3 mesi all'Unione Europea per decidere di aiutare la Grecia. Molti avrebbero preferito una procedura più rapida ed efficiente, incluso chi scrive. Una procedura che avrebbe evitato di scatenare i mercati finanziari e minare la fiducia dell'euro. All'origine di questi ritardi ci sono state incertezze, mancanza di leadership, rigurgiti nazionalistici, procedure inefficaci. Sembra facile a prima vista individuare i colpevoli. Insomma, Bini Smaghi dice c'è stata troppa lentezza, ma se si analizza poi il perché gli stati si siano mossi con una certa lentezza, ci si può chiedere in quale paese un tale evento non avrebbe innescato una crisi politica di dimensioni paragonabili a quella che è stata vissuta nell'Unione. E non ci si può meravigliare se molti cittadini dell'area dell'euro si siano dichiarati contrari a ripianare i debiti della Grecia. Non ci si può meravigliare se alcuni governi dei Paesi membri, riflettendo il disagio dei propri cittadini, abbiano esitato a lungo prima di dare il loro accordo al sostegno finanziario della Grecia. Questo perché? Perché come al solito quando c'è uno Stato che chiede aiuto, prima gli si dice beh, ma allora adesso sistema i conti, cerca di migliorare, cerca di mettere a posto, insomma fai un programma credibile di risanamento, altrimenti i soldi non te li diamo. E così insomma è il parto, l'inizio degli aiuti alla Grecia, 110 miliardi, certo farà molto discutere. Ovviamente l'accordo andrà perfezionato, venerdì prossimo si riuniranno ancora per la seconda volta nella storia della moneta unica i 16 capi di Stato e di Governo dell'Eurogruppo per discutere nuove regole in grado di evitare che il rischio di insolvenza della Grecia possa ripetersi, staremo a vedere. L'altro grande tema internazionale è quello certo dell'attentato fortunatamente sventato a New York, un'autobomba con i talebani del Pakistan che rivendicano, ma scrive a pagina 2 Repubblica, sostanzialmente appare poco credibile al momento, nel senso non ci sono prove a supporto della rivendicazione dei talebani. Quello che invece sembra è il volto di un uomo bianco e sui 40 anni, quello che scrive Angelo Acquaro da New York su Repubblica, pagina 2, è quello che è rimasto impresso forse in una telecamera. È lui che forse voleva mandare spedire all'inferno Times Square. Un uomo bianco sui 40 anni, tanto che la pista prevalente è proprio quella del terrorismo interno, su cui pochi giorni fa aveva lanciato anche l'allarme l'ex presidente Bill Clinton. Ricordate per esempio l'episodio di Timothy McVeigh, 15 anni fa, la bomba a Oklahoma City che uccise quasi 200 persone. C'è un po' ovunque il volto di questo Lance Orton, reduce del Vietnam, 57 anni, che ha una bancarella vicino a dove è stato piazzato questo, questo pulmino che non è esploso, che è diventato il volto dell'eroe, colui che ha dato il primo allarme. Lance Orton è sfinito 12 ore dopo l'allarme bomba, una serie di interviste, ho fatto solo il mio dovere, ho visto del fumo, mi sono avvicinato e poi ho lanciato l'allarme. Così ho dato l'allarme, Lance eroe per un giorno, ma certo l'America che ripiomba nella paura dell'11 settembre. L'altro tema ovviamente dell'America è tutto quello che sta succedendo con il petrolio, le perdite dalla piattaforma del British Petroleum. Anche qui si fanno i conti, si parla di un disastro incredibile. Pensate che secondo Repubblica, pagina 9, sono 100 miliardi di dollari ciò che dovremo pagare. Un po' li pagherà, si spera, anche la BP che ha fatto questo disastro. E a meno Obama ha detto pagheranno i petrolieri, sicuramente, e chi ha sbagliato. Ma certo ci sono poi danni collaterali. 100-150 miliardi di dollari stimati di danni. Pensate che l'uragano Katrina, che devastò New Orleans, portò a 200 miliardi di dollari. Dunque, non molto di meno, 100-150 miliardi la stima di quello che potrebbe essere le perdite per la British Petroleum. Oh, lo cita solo il giornale, o meglio, lo riporta solo il giornale. In realtà in America è citato la National Enquirer. Giusto per chiudere la pagina estera, qualche problema per Obama potrebbe venire anche da tale Vera Baker. 35 anni, il giornale ne mostra la foto, davvero meritevole, responsabile, quando lui era senatore dell'Illinois, della sua campagna politica. Attenzione, così Barack ha tradito Michelle, notte di sesso con la bella Vera Baker. Questo scrive National Enquirer, non ci sono dubbi. National Enquirer è quello che ha incastrato Tiger Woods, per primo, il golfista. Non ci sono dubbi, ci sono prove inoppugnabili che Barack Obama tradì Michelle nel 2004 quando era semplice senatore dell'Illinois. Pare che il National Enquirer abbia offerto $1 milione, o meglio, un gruppo anti-Obama, no? Il National Enquirer dice che un gruppo anti-Obama avrebbe offerto oltre $1 milione a chi sarà in grado di fornire le prove della relazione. E attenzione, perché queste cose negli Stati Uniti contano. Allora, veniamo all'Italia. In Italia la politica è ancora tutta a chiedersi della vicenda di Claudio Scajola. Ancora oggi pieni i giornali, la vicenda dell'acquisto di un appartamento. Claudio Scajola ha fatto un paio di interviste, due o tre interviste per la verità, nei giornali del 1° maggio, dicendo non mi dimetto, chiarirò tutto, non c'è niente di assolutamente di illecito nei comportamenti che ho tenuto, vale a dire l'acquisto dell'appartamento con vista al Colosseo, ormai diventato famoso in via Fagutale a Roma. Oggi il Corriere della Sera addirittura mette proprio la foto con cerchiato in rosso, ecco qui le finestre dell'appartamento che si affacciano sul Colosseo. È che dire che anche dai giornali di oggi le accuse sono molto forti. Portai gli assegni al Ministero e li diedi a Scajola per il rogito. Così si legge a pagina 8 e 9 del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, il giorno del rogito, portai gli assegni circolari direttamente al Ministero dove si doveva stipulare l'atto. È il verbale del 23 aprile dell'architetto Angelo Zampolini, colui che avrebbe avuto il ruolo di mediatore nell'operazione immobiliare del 2004. Il ministro ha escluso di aver ricevuto altri soldi oltre i 610.000 euro che risultano nel documento notarile, ma questa cosa sarebbe stata smentita dal racconto di Zampolini. Anche le sorelle Papa, coloro che cioè hanno venduto al ministro Scajola l'appartamento, dicono siamo certe, ricordiamo bene, quegli assegni mi sono stati consegnati dal ministro Scajola. Insomma, le accuse continuano, c'è la solidarietà politica degli alleati politici di Scajola, ma che cosa fa il Corriere della Sera, per esempio, con Enrico Marro a pagina 9? Va a studiare le quotazioni immobiliari. Perché 610.000 euro per un appartamento di 180 metri quadri significa 3.389 euro al metro quadro. Ebbene, per via del Fagutale, zona di assoluto pregio, dove abitano nello stesso appartamento Raul Bova, Lori del Santo, il segretario del PRI dei Repubblicani Nucara, le quotazioni sono tra i 4.270 fino ai 6.570 euro al metro quadro. Ma Enrico Marro del Corriere cita anche il supplemento Casa e Case del Sole 24 Ore, che il 24 luglio 2004 citava testuale: per dare un'idea di quale sia la situazione attuale di prezzi, i casi a Roma per un attico in Piazza Navona si arriva fino a 16.000 euro al metro quadro, 17.000 euro per un appartamento con vista Colosseo, 17.000 euro. Insomma, l'attacco è frontale, e i conti non tornano, tanto che anche l'Unità a pagina 12 cita che cosa? Cita Nicola Porro, che è il vice direttore del giornale e che ha intervistato Scajola, ma poi nel suo blog ha scritto questo: 610.000 euro per 180 metri quadri nel centro di Roma non sono il prezzo di mercato. Dire che quello è il prezzo giusto è un insulto alla nostra intelligenza. Dico subito che non credo al ministro Scajola che ho intervistato. Così Nicola Porro. Certo, la vicenda è sicuramente molto ingarbugliata, tanto che appare una nuova figura, o meglio rispunta una figura che era già spuntata nella vicenda degli appalti al G8, vale a dire quella di Don Evaldo Biasini, 83 anni, economo di una congregazione che custodiva, secondo i PM, i soldi, una vera e propria banca, tanto che è stato definito Don Bancomat, i cui segreti sono stati svelati, vengono svelati oggi dal Giornale in prima pagina. Questo è il titolo di prima pagina: un Don Bancomat per la politica, affari e mazzette, i segreti del sacerdote di 83 anni che custodiva i conti e i contanti del costruttore birichino Diego Anemone. Ripartiamo da qui dopo il traffico. Ecco tutti i segreti di Don Bancomat, come ha detto Don Evaldo Biasini, economo di una congregazione religiosa che sarebbe, secondo Gianmarco Chiocci, pagina 3 del Giornale, l'uomo chiave, colui che custodiva per Diego Anemone, uno dei costruttori implicati nella vicenda del G8, conti correnti e contanti, come in una banca occulta. Vengono pubblicate proprio a pagina 3 del Giornale l'elenco del saldo dei movimenti. Ecco qua, Diego Anemone prelevava 35.000 euro cash il 23 aprile, 50.000 il 7 maggio, ancora un prelievo l'8 maggio per 15.000 euro, 8 giorni più tardi passa la segretaria di Anemone a Lida e va via con 20.000 euro, cioè andava da questo prete. Il trucco secondo, per creare questi fondi, qual era secondo il Giornale? Cioè Diego Anemone faceva lavori di costruzione per questa parrocchia, per Don Evaldo, ma invece di pagarlo, Don Evaldo teneva a disposizione dei soldi fino a 4 milioni di euro, a disposizione ovviamente soldi che secondo gli inquirenti erano soldi non dichiarati, in nero, che poi Diego Anemone prelevava ogni tanto per darli a chi? Già, a chi? Questa è la domanda ora che si pongono tutti. E il Giornale, ecco qua, pagina 2, nel mirino 4 parlamentari, 3 del centrodestra, 1 del PD. Secondo la procura di Perugia, tremano le stanze della politica per le mazzette che Anemone avrebbe offerto ovviamente a molti politici, prelevandoli da Don Bancomat, uno dei parlamentari, e viene definito anche come ministro, ma non si capisce se è tuttora in carica oppure lo è stato nel precedente esecutivo. E insomma, questa è la situazione. Reazioni politiche: il finiano Granata che dice alla stampa ora Scajola faccia un passo indietro, la Finocchiaro a Repubblica che dice per ora siamo stati molto prudenti, ma forse il ministro Scajola dovrebbe dimettersi, E Nucara, Nuca, giustamente nel secolo XIX è l'unico che fa l'intervista più intelligente, è andato a intervistare il segretario del Partito Repubblicano, Nucara, perché? Perché abita nello stesso stabile di Scajola. A pagina 2 dice: cercate le sorelle Papa, quelle che hanno venduto ovviamente l'appartamento a Scajola. Ovviamente è il prezzo quello che è in discussione. Tanto per cominciare, dice Nucara, lui, cioè Scajola, non abita in un appartamento come tutti gli altri, ma sta all'ammezzato. Non è il sottoscala, ma il Colosseo non lo vede. Nell'ascensore schiaccia il primo bottone, mentre io vado al secondo piano e ho il balcone e il Colosseo lo vedo. Se Scajola ha speso 600.000 euro, figurarsi lei. Guardi, io l'ho comprato nel 79, c'erano ancora le lire, la gente scappava dal centro, non si possono fare paragoni. Ma quanto ci vuole per abitare al Colosseo? Bisogna vedere le esigenze del venditore, magari ha bisogno. Io conoscevo bene le sorelle Papa, la mamma delle sorelle Papa. Insomma, poi dell'inquilino Scajola dice: l'avrò incrociato due volte, ma io sono di civiltà contadina, esco alle 9, rincaso alle 11, lui no. Insomma, vabbè, non è che è un'intervista nella quale in realtà non è che dica molto, Nucara. Sta di fatto che Nucara parla al secolo XIX, prezzo basso, vende chi ha bisogno. Tutta questa vicenda Scajola. Poi c'è la vicenda Calderoli, che ieri da Lucia Annunziata ha detto: non so se andrò alle celebrazioni dell'Unità d'Italia. Grande polemica. Ah, secessionisti, la Lega. Ci sarà questo dibattito questa settimana. Intanto, per il momento, il dibattito è stato di questo tipo tra Bobo Craxi e Calderoli. Calderoli ha detto sostanzialmente, Bobo Craxi ha parlato di una direzione americana dietro le posizioni di Fini. Risposta di Calderoli: ha scambiato funghi allucinogeni coi funghi normali. Non ci credo. Craxi replica così: mi vedo costretto a replicare a tono, tenuto conto che il ministro in questione è notoriamente un povero pirla, come si dice qui al nord. E a lei, scambio di complimenti, insomma. Andiamo al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, come detto, freno alle liti in condominio. Questo è il titolo di apertura. Si parla della mediazione. Attenzione, perché la novità arriverà l'anno prossimo, dal marzo del 2011. Ci sarà la necessità del passaggio obbligatorio dal mediatore prima di fare una causa per chi ha, per esempio, tutte quelle cause relative agli immobili, eccetera. Si dovrà pagare anche un'indennità, sostanzialmente. Di che cosa si tratta? La mediazione entra in casa. 1 milione di controversie circa, questa è la stima, dovranno passare per la mediazione prima di finire in tribunale o dal giudice di pace. La fetta più consistente è quella delle cause che hanno a che fare con gli immobili. Si tratta di 1 milione di controversie, per l'appunto, come stima, e come stima di denaro che mobiliteranno circa 1 miliardo di euro, perché sarà innanzitutto un modo per togliere un po' di ingolfamento ai tribunali, ma sarà anche un modo per aumentare il business della mediazione. Tanto che 1 miliardo sul tavolo della conciliazione, questa è la stima di quanto potranno valere queste nuove, l'arrivo della mediazione che entrerà in casa per il Sole 24 Ore. Potete leggere a pagina 4 e 5. Come segnalazione conclusiva c'è sempre un interessante articolo sul Sole 24 Ore, pagina 15, sulle rimesse, cioè i denari che gli immigrati rimandano ai loro paesi. 0,5 punto percentuale di PIL italiano va via gli immigrati e ciò che restituiscono ai loro paesi soltanto nel 2009. I numeri sono 6 miliardi 752 milioni circa. Un tesoro da 6,7 miliardi, secondo il Sole 24 Ore, secondo questa ricerca che trovate a pagina 15, molto interessante sapere chi spedisce di più e da dove. Dal Lazio soprattutto, e la comunità cinese, quella che spedisce di più nel proprio paese. Allora, noi ci fermiamo, parliamo di codice della strada oggi nel nostro sondaggio. Vi ricordo che parliamo di questa novità proposta, approvata come emendamento. Chi ha la patente sospesa potrà avere e chiedere una deroga di 3 ore al giorno per riottenerla per guidare, che ne so, per andare al lavoro. Che ne pensate? Siete d'accordo? Dovete votare su radio24.it oppure il sole24ore.com. Ne parliamo più tardi, il GR.